Radio 24 Reportage. Violenza e povertà. Bambini e adolescenti invisibili nell'era Covid. Di Livia Zancaner. Il lockdown e come si ha acuito i problemi, li ha portati all'esasperazione, perché loro non avevano più nemmeno quelle 8 ore di libertà che avevano quando il papà e il marito andavano in fabbrica. Quindi sono arrivati a fine aprile già con un livello di esasperazione spaventoso. Claudio Strata è l'avvocato di Alex, 18 anni, una storia di violenza che dura almeno da 10 e che si chiude il 30 aprile, quando il ragazzo uccide il padre a coltellate per difendere la madre. Quando è entrata in casa la moglie, l'ha subito aggredita dentro la porta di casa in faccia e è iniziata una serata tremenda. Alle 22:26 Loris ha mandato un messaggio allo zio dicendo: cosa aspetti a intervenire in modo drastico? Qui rischiamo tutti la vita, tu sei l'unico che lui ascolta. Alle 22:26, alle 22:48 c'è la telefonata di Alex ai carabinieri che dice: venite che ho litigato con mio padre. Per fortuna ci sono delle registrazioni dalle quali si capisce che lui minaccia di morte, ma con una violenza spaventosa, la moglie e i figli, dicendo: se voi chiamate i carabinieri sappiate che un minuto dopo siete tutti morti, e se anche arrivano e mi arrestano, tanto io prima o poi esco dal carcere. Quindi loro vivevano con questa minaccia quotidiana e costante. Per Alex c'è stata una gara di solidarietà. Compagni di scuola, professori, vicini di casa hanno scritto al giudice. 5 famiglie si sono offerte di accoglierlo. Il tribunale del riesame ha concesso al ragazzo i domiciliari del suo miglior amico e compagno di banco, grazie alla sua emersa personalità e al contesto ambientale in cui il delitto è maturato. What in the world are we going to do? Look at what everybody's going through. La storia di Alex non è un caso isolato. In Italia molti bambini, adolescenti, donne vivono situazioni di maltrattamenti e abusi che con l'isolamento conseguente all'emergenza sanitaria sono aumentate. Disagi che in parte esistevano già, giorno dopo giorno sono cresciuti anche per l'assenza del rapporto con i coetanei e le difficoltà nel convivere, magari in spazi ristretti. Ciò ha portato a un aumento delle chiamate di aiuto sia per violenza assistita e sessuale, sia per sofferenza e disagio, soprattutto da parte di bambini e ragazzi dagli 8 anni in su, con una punta tra gli 11 e i 16 anni, ci spiega Ernesto Caffo, presidente Telefono Azzurro. Per quanto riguarda il Telefono Azzurro, le nostre richieste di aiuto sono state mediamente del 30-40% nelle linee di ascolto e analogamente sulla linea di emergenza, con caratteristiche diverse, però mediamente le chiamate sono aumentate, sia richieste in chat, con chat molto lunghe e prolungate da parte dei ragazzi, anche perché la mancanza, anche per i ragazzi ad esempio con problematiche specifiche di disagio, di punti d'appoggio nei servizi, ha portato ovviamente su di noi richieste che evidentemente non erano evase da altri canali che erano usati precedentemente, per cui tutti i bambini con disturbi ossessivi compulsivi con le problematiche di comportamenti autolesivi, ecco, sono giunte a noi in modo sicuramente molto superiore a quello che noi ci aspettavamo, tanto che abbiamo dovuto aumentare i servizi che erano poi in smart working per alcune settimane e cercando di dare una risposta giorno e notte a queste richieste, anche in orari diversi dal solito, perché essendo questi ragazzi a casa è chiaro che le loro richieste avvenivano durante tutto l'arco della giornata e della notte. Sulle chiamate delle linee di ascolto 19696 sono chiamate tendenzialmente legate a sofferenza, disagio, solitudine, se vogliamo difficoltà nella vita di relazione con gli adulti, ma non violenze, se non una parte, una percentuale mediamente del 30% che di violenza assistita. Nell'ambito invece della linea 114 prevalentemente quasi tutte sono situazioni di violenza di emergenza, quindi sono situazioni di violenza sessuale, di tematiche tendenzialmente legate a violenze subite molto gravi, anche perché la linea del 114 è una linea di segnalazione. Abbiamo avuto meno chiamate invece di minori stranieri non accompagnati e quindi di scomparse rispetto ad altri mesi, però devo dire che la presenza di adolescenti nelle richieste di aiuto è stata molto ampia, sia di ragazzi che di ragazzi. Finito l'isolamento, le problematiche restano, anzi, le segnalazioni crescono perché spesso i bambini e i ragazzi hanno rimosso le situazioni di sofferenza che poi riemergono. Punto cruciale, la mancanza della scuola. Le classi sono infatti osservatori importanti per intercettare necessità e pericoli. A scuola il bambino può chiedere aiuto. L'assenza di lezioni e attività extrascolastiche si traduce in povertà educativa e si somma alla povertà assoluta, nella quale, secondo Save the Children, rischia di scivolare 1 milione di bambini in più a causa della perdita di lavoro delle famiglie legata al Covid. Sentiamo Daniela Fatarella, direttrice generale Save the Children Italia. Stimando ad esempio che nel mese di marzo circa 9 milioni di persone sono state senza lavoro e di questi circa 3,7 milioni sono persone di famiglie monoreddito con bambini, e potremmo vedere aumentare di un altro milione e quindi arrivare a circa 2 milioni di bambini in povertà assoluta. Che cosa significa per un bambino? Significa non avere appunto accesso ai beni primari. Quindi noi oggi vediamo i bambini, dopo pochi mesi dell'emergenza coronavirus, in realtà schiacciati tra due tipi di povertà: la povertà economica delle famiglie alle quali chiaramente appartengono, e poi la povertà educativa, che viene data da una doppia combinazione in questo momento, cioè dalla chiusura della scuola e quindi da, per molti bambini di famiglie fragili, l'impossibilità di seguire in maniera regolare la didattica a distanza, e dall'altro la chiusura e la sospensione di tutte quelle attività extrascolastiche che fornivano invece un supporto molto forte anche proprio per far crescere bambini da un punto di vista di intelligenza emotiva, capacità di sviluppo. E che misure avete messo in campo in questo periodo? Noi abbiamo cominciato a lavorare da subito, dal momento del lockdown, e quindi abbiamo continuato a seguire supporto psicologico, formazione, però abbiamo iniziato anche nuove attività, ad esempio distribuzione di pacchi alimentari, pagamento delle utenze, distribuzione di tablet e connessioni per i bambini che appunto ne erano sprovvisti. In 3 mesi abbiamo raggiunto più di 60.000 persone e oggi abbiamo rilanciato moltissimo il nostro intervento, soprattutto sulla povertà educativa, e quindi abbiamo lanciato questa nostra nuova progetto che si chiama Riscriviamo il Futuro, che vuole raggiungere 100.000 bambini nelle aree più fragili, proprio per garantire loro opportunità di educazione e di sviluppo. Le due emergenze principali sono dunque quella alimentare, per molti minori il pasto della mensa scolastica, quello più importante, e le difficoltà per la didattica a distanza, ci racconta Carlo Borgomeo, presidente dell'impresa sociale con i bambini, che con il Fondo contro la povertà educativa ha sostenuto 350 progetti in tutta Italia per oltre 480.000 bambini e ragazzi. In questi mesi, con i bambini, ha lanciato anche un bando da 10 milioni di euro per gli orfani di femminicidio, bimbi che hanno perso la madre, uccisa dal padre, morto suicida o in carcere. Facendo il nostro lavoro di incontro con le organizzazioni di terzo settore, ci è venuta la richiesta di occuparci di questo segmento particolare e drammatico costituito dagli orfani di vittime di femminicidio. Noi abbiamo fatto molta fatica a costruire il bando, a costruire questa iniziativa, perché ci sono scarse notizie, abbiamo avuto sulle diverse situazioni. Anche fare la mappa è difficile. Abbiamo avuto rapporti intensi con il Ministero degli Interni, con il Ministero di Giustizia, e alla fine abbiamo costruito questa iniziativa che ha l'obiettivo di chiedere ad organizzazioni che abbiano una certa competenza ed esperienza, perché è una materia nella quale evidentemente non si può improvvisare, che ci presentino delle ipotesi progettuali che partono intanto dalla ricognizione, dall'individuare i casi dei quali ci si vuole occupare, che non è una cosa facilissima. La mancanza di dati sugli orfani di femminicidio è ormai nota. Unico calcolo è del progetto Switch Off, e stima 1.500 orfani tra il 2000 e il 2013, numero salito a 2.000 secondo valutazioni successive. A tutela degli orfani esiste la legge del 4 gennaio 2018, ma alcuni strumenti non trovano applicazione e i fondi non sono ancora stati sbloccati, nonostante l'annuncio a novembre del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. In un documento recente, l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza parla di un sistema fragile, in difficoltà, senza indicazioni chiare sugli interventi da porre in essere e senza progetti individualizzati. Matteo Morlino è il papà di Carmela, uccisa il 12 marzo 2015 davanti ai suoi figli di 7 e 3 anni. Non siamo soli, lo Stato è stato nei nostri confronti assente, ma non solo nei nostri confronti, è una cosa orribile, ma è la realtà. Gli amici mi incontrano e abbiamo letto che è stata stanziata questa cifra, io di tutte quelle cifre non ho visto un euro. Quanto spendete per i vostri nipoti? Io feci un calcolo nel 2017, erano allora 3.600 euro al mese, comprensivi anche del mutuo sulla casa familiare, cioè di tutto. Ora le cose si sono un po' assestate, ma nei primi mesi, se non avessimo avuto io e mia moglie le buonuscite, perché eravamo andati in pensione tutti e due, non so come avremmo potuto farcela. Ora le spese da 3.600 mensili si sono ridotte a 2.000 mensili. Nella stessa situazione ci sono tante famiglie, nonni, zii e cugini che crescono bambini e ragazzi rimasti orfani con i loro traumi e le loro esigenze speciali e che finora non hanno ricevuto nessun aiuto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.